9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e in questo mondo in cui capitano sempre più cose strane, in cui sedi di giornali vengono perquisite per dossier, presunti dossier contro il presidente di Confindustria, in cui tutte le procure continuano a intercettare giornalisti di tutti i tipi, non si riesce a capire perché ciascuno parla, ciascuno dice, ma insomma, grande confusione, noi ci occupiamo invece di una cosa che ci preoccupa molto di più, per quanto anche queste notizie ci preoccupano molto. Io sono inciso, siccome molti me l'hanno chiesto, non riesco a capire perché si intercetti così tanto in Italia, da una parte. Dall'altro è ovvio che se ci fossero degli estremi in cui chiacchiere tra giornalisti diventano poi pressioni improprie, è altrettanto sbagliato. Lascio a voi, che da ieri mi bombardate di sms, scegliere che cosa sia più grave dal vostro punto di vista, perché non tocca a me dirlo. Entrambe le cose non mi piacciono. Invece oggi noi ci occupiamo della nostra trasmissione. Di che cosa? Ci occupiamo della banda larga, che per gli ascoltatori di Radio 24 sanno benissimo non essere un complesso musicale, o per meglio dire dovrebbe essere sì la musica di fondo che consente di crescere, di far accrescere la produttività delle nostre imprese, oltre che di accrescere la possibilità per molti milioni di italiani che ancora hanno pochi kilobyte per i loro collegamenti di avere servizi più rapidi e veloci per dialogare con la pubblica amministrazione. Ma da questi microfoni noi ci sentite soprattutto preoccupati del fatto che ci siano troppe centinaia di migliaia di piccole imprese italiane che non hanno la banda ancora necessaria per poter implementare il proprio fatturato, il proprio perimetro di business, per poter incrementare la propria capacità di intenere rapporti diversi con l'intera filiera della propria, dei propri fornitori, dei propri clienti, per poter inventare in maniere diverse di vendere i propri prodotti. E tutto questo è accertato da anni e anni di ricerche della Banca d'Italia come di economisti, grava sulla produttività italiana, quindi è uno dei fattori che spinge verso il basso la crescita del nostro paese. In questi due giorni c'è, come tutti gli anni in questa parte dell'anno, una due giorni dedicata ai temi delle telecomunicazioni e degli investimenti in tecnologie della comunicazione, dove tutte le imprese del settore si riuniscono per fare il punto. È cominciata ieri e oggi con alcuni protagonisti di questi due giorni facciamo il punto di qual è lo stato delle cose. Io ricordo tutti che noi siamo reduci due anni fa dal piano Caio, che sembrava aver delineato delle tappe, delle possibili convergenze per la maggior copertura del nostro paese, scaglionando tra quello che si chiama il digital divide per riuscire ad arrivare qualche mega almeno di banda, per un po' per tutti, compresi coloro che oggi ne sono esclusi, compresa poi la frontiera più elevata di arrivare alle offerte a 100 mega e oltre di banda ultra larga, che sono quelle necessarie davvero, e che però hanno il problema di una redditività a quel punto interrogativo rispetto a investimenti molto ampi. Poi abbiamo avuto il piano Romani un anno fa, la famosa polemica sugli 800 milioni del governo che erano stati stanziati e poi sono stati messi da parte per la realizzazione almeno di questo digital divide, la prospettiva che tutti le aziende del settore, o almeno i maggiori players, convergessero per una società che mettesse insieme capitali e che condividesse le prospettive da una parte di redditività e di sostenibilità dell'investimento, ma poi anche della sua redditività, cioè del fatto che incontrasse domanda poi adeguata. Di tutto questo però siamo finiti in stallo, e allora iniziamo a parlarle innanzitutto con chi ieri ha pronunciato una parola di speranza comunque per la ripresa di questo cammino, cioè con Antonio Catricalà, che è il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Lo ringraziamo molto, a pochi minuti, quindi andiamo subito al punto. Presidente Catricalà, dal suo punto di vista è possibile riprendere quel percorso di convergenza tra i grandi gruppi, cioè l'ex incumbent e i concorrenti, anche se in realtà si è perso un po' per strada, e con quali possibilità e prospettive? Lei si era convinto ed era favorevole a una società mista, di che tipo secondo lei? Ma intanto buongiorno, volevo chiarire che noi stiamo parlando della rete di nuova generazione, Certamente. Ti tengo a dirlo, dottor Giannino, perché oggi Repubblica, riportando male le mie parole, dice che io voglio espropriare Telecom della rete che fu sostanzialmente oggetto della privatizzazione, che oggi è quotata in borsa. E quando ieri l'ha detto chiaramente lei che non c'era niente che avesse a che fare con gli assetti proprietari. Ma, non, ma nella maniera più assoluta, ma ci mancherebbe, cioè sono uno che ha studiato anche un poco di giurisprudenza nella vita e sa che queste cose sono impossibili da realizzare se non c'è la volontà assoluta, piena e non coercibile del proprietario. Ma di che stiamo parlando? Confondono le pere con le mele, oppure forse lo fanno per qualche motivo, speriamo di no. La verità è che oggi come oggi si parla solo per questa rete di fibra ottica, cioè non è che esiste una possibilità di arrivare agli obiettivi che la Commissione europea ci impone e che sono obiettivi che potranno solo essere anticipati, non credo che saranno posticipati né saranno peggiorati, se non c'è uno sforzo comune, congiunto, sia del settore pubblico sia del settore privato. È un momento questo utile per l'Italia per fare sistema, per creare una società in cui il fine principale sia costruire questa grande autostrada dell'informazione, questa grande autostrada del sapere, e questa è effettivamente una sorta quasi di opera pubblica. Poi è chiaro che ognuno deve avere i propri ritorni, sia il pubblico sia il privato. Ieri lei ha accennato all'ipotesi che l'ipotesi è una società mista, cioè un terzo una parte pubblica, un terzo i grandi operatori per condividere le reti di nuova generazione, un terzo tutti gli altri poi operatori alternativi di sistema, possa comunque decollare. Io guardi, addirittura caricherei l'antitrust dell'onere gravoso di curare le regole di governance, di asseverarle, per evitare che ci siano poi intese restrittive della concorrenza in questo settore, dove la concorrenza finora ha funzionato bene, con benefici per i consumatori, per l'innovazione tecnologica, perché è un settore trainante l'innovazione, e per le tariffe che sono effettivamente scese molto. L'ultima domanda che le faccio è: lei pensa che gli operatori siano sempre interessati come 2 anni fa o un anno fa, oppure per così dire siano tornati a una fase di maggior muscolarità, perché dicono tanto qua la redditività, abbiamo un modello di business diverso, rame e fibra resteranno due cose separate, bisogna pensare a reti separate alternative. Secondo lei non esiste davvero la possibilità di 2 reti alternative? Io le dico, proprio per questo ho rilanciato quest'idea della società, della rete di nuova generazione, perché vedo che ormai ognuno sta pensando per sé, il che è un bene quando c'è da fare operazioni di piccolo calibro, ma quando abbiamo degli obiettivi così importanti da raggiungere e siamo così lontani, bisogna fare sistema, bisogna dimostrare che il Paese ha la capacità di raggiungere i traguardi che ci vengono imposti dall'Unione Europea. Ecco perché io l'ho rilanciata. Va bene, allora avete sentito questa parola di speranza da una parte, una prospettiva che viene ribadita dal Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza, che ieri ci ha tenuto a dire all'inizio, ovviamente per l'impostazione come vigile del mercato della concorrenza, io non potevo che nutrire molti dubbi sul fatto di chiamare tutti i players che sono concorrenti per definizione, per natura, per vedere come mettere insieme gli sforzi e ciò che ciascuno ha di propria infrastruttura per le reti di nuova generazione. Quando poi ho cambiato idea, spero che il fatto di averla cambiata idea, anche se la prospettiva non è decollata perché l'incentivo pubblico è mancato, perché la cornice non è andata avanti, non per questo cambierò idea di nuovo altrettanto facilmente. Vediamo se questo sarà il punto, ma nella 2 giorni che si è aperta e che si conclude oggi a Capri, il punto di fondo è sembrato proprio un pochino anche questo, rispetto alla riflessione fatta negli ultimi 2 anni e che fino allo stato attuale, vedremo se dopo le proposte di Catricalà ci saranno nuovi sviluppi, se con il nuovo ministro Paolo Romani ci saranno nuovi sviluppi, il ministro dello sviluppo economico, ma al di là di questo, nella 2 giorni di Capri, il punto che è stato sottolineato nel primo giorno dei lavori è stato anche un altro, cioè quello che al di là delle convergenze sull'infrastruttura, il punto è quello di capire meglio, di mettere a fuoco meglio la domanda che viene dal paese e soprattutto dalle imprese. Sentiamo con due protagonisti del dibattito di questi giorni in che cosa questa riflessione aggiuntiva quest'anno tenta di compiere un passo avanti rispetto allo stallo che si è registrato negli ultimi due anni. Tentiamo anche di spiegare poi a chi è a casa e non è proprio addetto ai lavori in che cosa consiste l'agenda europea che è lanciata dalla Commissione e che a questo punto è vero, anch'essa sposta in avanti un po' gli obiettivi di copertura, ma che obbliga e chiede a tutti comunque a fare sicuramente meglio, ma non peggio come obiettivi minimali, e cerchiamo di spiegare poi che cosa vuol dire per il nostro paese. Io comincerei con François de Brabant, che in realtà, oltre che essere amministratore delegato di Between, ogni anno è un po' l'organizzatore, il punto di riferimento, quello che mette a fuoco proprio i punti del dibattito intorno a cui poi si trova l'intera comunità delle TLC e della ICT italiana. Allora, De Brabant, quest'anno, nella due giorni di Capri, rispetto al problema delle infrastrutture, quali altri punti sono messi a fuoco? Ma dunque, il tema è il risultato evidente, è lo scarso utilizzo che abbiamo in Italia delle reti, e questo naturalmente va a incidere sul dibattito di cui avete incominciato a parlare pochi minuti fa. Cioè, il tema è che da una parte è evidente che dobbiamo allargare la banda. È difficile pensare che tutto finisca qui, in fin dei conti la banda larga ha 10 anni di vita, ha sfruttato il rame con la DSL, che ormai è una sigla che tutti conoscono, ma non può finire qui, nel senso che il futuro, basta guardare un po' più avanti, sicuramente richiederà, e la tecnologia consentirà, un allargamento di banda impensabile. Quindi quello non è un problema, il problema è proseguire in questo allargamento. Il problema che abbiamo specificatamente in Italia è che usiamo poco la rete. Allora, al di là di altri vincoli, questo va a incidere ovviamente su quello che dicevate un attimo fa. E allora dove sta il problema? È che noi abbiamo il 50% di italiani che non hanno mai messo piedi in internet. La Kroes, la commissaria europea, quando ha presentato a maggio l'agenda digitale, con una certa enfasi ha detto: pensate che il 30% degli europei non ha mai messo piede in internet. Ecco, noi siamo al 50%, quindi abbiamo da recuperare un gap di utilizzo. Se poi guardiamo le aziende, come lei Giannino diceva un attimo fa, le aziende, ecco, noi abbiamo ovviamente, sappiamo tutti, un grande potenziale, potente parco di piccole e medie imprese. Ecco, queste però fanno fatica a innovare, forse anche perché gli si propone l'innovazione in modo non adeguato, ma sta di fatto che abbiamo un gap, le dico due percentuali, ma le imprese, piccole e medie imprese, in termini di acquisti online siamo a meno 43% rispetto alla media europea, e invece nelle vendite, cioè l'operazione inversa, cioè le piccole imprese che vendono su internet, siamo a meno 66% rispetto alla media europea dei 27 paesi. Beh, sono percentuali che indicano abbastanza, insomma, il gap da colmare. Danilo Broggi, amministratore delegato di Consip Spa, non vi devo ricordare quanto Consip negli anni recenti sia stata uno degli attori più impegnati nella rivoluzione della messa in rete, del benchmark, della comparabilità delle offerte. Stiamo parlando dell'e-procurement nel campo del comparto pubblico e degli enti pubblici più ampi, quindi ottimizzazione e razionalizzazione attraverso le nuove tecnologie e trasparenza insieme del procurement nel settore pubblico con i denari dei contribuenti. E contemporaneamente però Danilo Broggi ha esperienze precedenti, non è stato sempre nel mondo pubblico, anzi no, è venuto nel mondo delle imprese, è venuto solo nel mondo di Confapi, e quindi io gli chiedo entrambe le cose. Da questo punto di vista, primo, continuiamo il discorso che ha appena finito De Brabant, accennando a quanto indietro siamo rispetto alle piccole. Quanta colpa è dei piccoli e delle piccole imprese italiane, e quanto invece non è tanto colpa loro, ma è espressione di un limite di torsione a cui stanno per patrimonio, per cultura inserita? Che cosa gli si può dare perché facciano meglio questo salto? Da una parte, ci devono pensare gli operatori della TLC e dell'ICT a fargli fare il salto, oppure bisogna inventarsi qualcos'altro? Secondo, poi in una seconda parte del suo intervento anche però ci dica qualche prospettiva sulla parte pubblica dell'ottimizzazione delle tecnologie, visto che quello è un attore, un acceleratore della banda larga, non solo per gli investimenti, come dice Catricalà, ma perché poi con la messa in rete dei servizi si può fare un salto. Quindi lei è in condizioni di darci entrambi gli elementi. Prego Broggi. Allora, innanzitutto buongiorno a lei, dottor Giannino, e ai radioascoltatori. Credo che il problema, almeno dal mio punto di vista, dal mio sentito, ma anche dal mio quotidiano pratico, è che noi oggi usiamo, noi oggi sistema paese, parliamo adesso di PMI, ma in generale molto poco la banda già esistente. Cioè, tradotto in termini diversi, non c'è una piena comprensione del valore che lo strumento, diciamo, dell'informatica, ma anche del quello che chiamiamo ICT, quindi introducendo anche la communication, può portare a beneficio delle imprese, in particolare i piccole e medie, e a beneficio delle istituzioni, i cittadini e della pubblica amministrazione. Cioè si tende troppo a valorizzare l'aspetto tecnologico, la necessità di banda sempre più larga, la velocità del microprocessore ed altro, e poco ci concentriamo nel far comprendere anche attraverso un utilizzo esteso di servizi innovativi il vero potenziale che nasconde ormai l'ICT. Ma non scopriamo niente, negli Stati Uniti l'80% del PIL oggi è fatto da servizi e la business information è arrivata al 60% di questo valore. Si sta modificando il modo di fare impresa. Le imprese stanno, quelle più che hanno compreso questo valore, stanno riguardando completamente il loro business model, stanno scardinando logiche che per 40 anni sono state, diciamo, statiche, seppur nella loro evoluzione. Stanno modificando il modo anche di vendere i prodotti, quindi non si vendono più prodotti ma si vendono i servizi e contengono prodotto. In sostanza c'è una rivoluzione segnata, se vogliamo dirla, con anche gli ultimi premi dati per esempio dal premio Pulitzer, che per la prima volta ha premiato un'agenzia che vive solo online, un vignettista che pubblica solo online e un giornale che utilizza in maniera intensiva Twitter. Insomma, dobbiamo renderci conto, e questo è il punto, che non abbiamo lavorato, secondo me questo è una responsabilità che va condivisa fra il mercato, che tende troppo a concentrarsi sulla tecnologia e poco invece sul valore che si crea con la tecnologia, sugli stessi imprenditori. Pensiamo alla formazione, all'accompagnamento, alla sensibilizzazione. È normale che una rivoluzione di questo tipo debba avere un supporto, non possiamo immaginare che si possa attuare in tempi brevi e senza una sensibilizzazione. E questa è l'esperienza anche che ho visto in Consip, quando da questo concetto, e quindi mi sposto sulla seconda domanda, ci spostiamo sulla pubblica amministrazione, lo sforzo che Consip fa è proprio in questa direzione. Noi accompagniamo con una struttura di account sul territorio, con un secondo livello di accompagnamento che sono gli sportelli impresa, ne abbiamo 180 nel paese, abbiamo anche creato gli sportelli della pubblica amministrazione, ne abbiamo oggi 12 nel paese. Cioè, se non si fa un'azione di accompagnamento, di sensibilizzazione, dove non si deve far comprendere l'utilizzo della macchina o del sistema, ma bisogna farne comprendere il valore che quell'utilizzo provoca, ecco, questo è quello che è mancato, e secondo me questo è il punto vero. Poi nessuno dice, io me ne guardo bene, che non serva la banda ultralarga, che non serva un'estensione a una popolazione più vasta di internet e di altri sistemi, ma se non lavoriamo sulla comprensione del valore stiamo facendo comunque un lavoro a metà o quantomeno un lavoro incompleto. Nella pubblica amministrazione, secondo me, in alcuni casi si è anche più avanti del mondo privato, perché questa sensibilità è stata messa in pratica. Oggi molte piccole e micro imprese usano strumenti digitali per essere, diciamo, fornitori potenziali dell'amministrazione, molte amministrazioni ormai fanno ordini online. C'è uno sforzo complessivo del sistema paese che però, se non viene sorretto, concludo, da un grande sforzo diviso fra le parti di sensibilizzazione del valore, a mio avviso il nostro dibattito rimane sterile. Perfetto, ora pausa di pubblicità, poi torniamo in studio con i nostri ospiti. E i nostri ascoltatori mandavano intanto sms, come dicevo, adesso parte la nuvola di Telecom, adesso parte la nuvola di Telecom. Questo in riferimento a la campagna di pubblicità che insomma ha una certa martellante presenza e che però, vedete, associate, perché molti di voi dicono, ma insomma questo problema della banda larga è poi davvero un problema così fondamentale per il paese? Se metà degli italiani non hanno come strumento quotidiano abituale, o meglio non ce l'hanno proprio nel loro orizzonte di vita internet, significa che non se ne può fare a meno. Mi colpisce che arrivino così numerosi messaggi di questo tipo questa mattina, perché è come se testimoniassero per certi versi che la convinzione di dover vivere a ribasso, di essere in una curva negativa così forte da dover ripensare quello che dovunque nei paesi avanzati è il pilastro della crescita, del procedere verso l'empowerment, cioè la moltiplicazione delle possibilità che a ogni cittadino, prima che consumatore, risparmiatore, produttore, viene dalla ampiezza di questo strumento di comunicazione, di quello stiamo parlando con la banda ultralarga, come se voi a casa, molti di voi dicessero, ma tutto sommato è troppo, non è alla nostra portata, significa che addirittura è un lusso eccessivo, perché tutti questi miliardi investiti lì? Questa cosa mi colpisce perché noi sicuramente siamo reduci invece da tanti anni in cui la prospettiva era quella anche di puntare sul rafforzamento dei diritti, la comunicazione, insomma la libertà di internet. Se messaggi come questi iniziano a passare tra così tanti di voi, questo significa che forse questi anni di crisi hanno un effetto più radicato di quanto siamo abituati a raccontarci. Comunque sentiamo le prime telefonate e poi torniamo ai nostri ospiti, a cui si è aggiunto anche Stefano Quintarelli, lo sapete, è un commentatore abituale da questi nostri microfoni, è un imprenditore, uno dei pionieri nell'introduzione commerciale di internet, uno dei fondatori di iNet nel 1994, era uno praticamente dei primi pionieristici internet service provider, quindi saluto anche Quintarelli. E intanto però cominciamo con le prime telefonate. Sentiamo Amedeo da Milano. Prego Amedeo. Sì, buongiorno, sono in macchina tra Mantova e Milano, la seguo sempre e volevo dire una cosa molto breve. In realtà io sono un imprenditore della comunicazione, ho un'agenzia, 6-7 dipendenti, e quindi lavoro con grandi gruppi industriali, aziende, pubblico, e quindi ho una visione a 360 gradi del tema, e le dico, il problema vero degli imprenditori, compreso il mio che sono un giovane imprenditore, è che la burocrazia ci spacca assolutamente, come si può dire, i maroni, nei 365 giorni dell'anno, da parte dello Stato, la gestione di tutto quello che è l'azienda da questo punto di vista, per cui la libertà e la fantasia per poter crescere, innovare da quel punto di vista è veramente repressa. Questo è il vero tema. Lei dice la parte pubblica è il vero ostacolo. La parte pubblica della gestione aziendale, cioè oggi gestire un'azienda vuol dire avere praticamente solo problemi e sempre comunque un'attenzione costante alla gestione della burocrazia. Parlo delle... E questo è chiaro, ma dico, se mettessimo tutto in rete con dei software che rendono anche ciò che è complesso, perché la gravosità delle nostre norme pubbliche, tante volte lo dico sempre che lo Stato è corruttore in questo, però insomma con le nuove tecnologie potremmo in qualche maniera alleviarne l'impatto sulle imprese, o no? Sì, ma c'è stato un rallentamento anche su questo punto di vista, perché mentre c'erano comuni che negli anni 10 anni fa erano capofila nella semplificazione, in certo tipo di ragionamento sulla rete, oggi questa cosa si è assolutamente bloccata. Lei tocca un punto che non aveva ancora toccato, la disponibilità degli enti locali a farsi parte di questo discorso complessivo, vista lo stallo in cui siamo finiti sul discorso infrastrutturale. In effetti ci sono parecchi progetti, penso alla Lombardia, che sono partiti, lo richiederemo ai nostri ospiti. Io ringrazio intanto Amedeo da Milano, sentiamo Andrea che ci chiama dalla provincia di Napoli. Lei che esperienza ha, Andrea? Buongiorno e grazie mille per l'opportunità. La mia esperienza, io credo che ora come ora si parli di banda ultralarga, di fibra ottica, ma sia soltanto un modo per distogliere l'attenzione da qual è il problema veramente, perché penso che il 90% di noi non abbia bisogno di questa grandissima fibra ottica a 100, 500, 1000 gigabit al secondo, ma una DSL che funzioni egregiamente, diciamo, quello potrebbe più che bastare. Sì, le famiglie, però mi lasci dire, no, le famiglie, sì, però io guardi, le imprese no. perché se noi, se le imprese vogliamo ragionare che utilizzino questa roba per vendere, riorganizzarsi, gestirsi, mettere in rete, fare filiera, pensare alle proiezioni internazionali, partecipare alle gare mondiali, tipo quelle della Brembo, la Brembo di Bomba 6 fa tutte le gare su internet mondiali, H24 per l'automotive. Certo, stiamo parlando di una grandissima impresa italiana al vertice della tecnologia. Ecco, questo tipo di cosa qua, alcune centinaia di migliaia di imprese italiane si possono mettere in condizione per farla. A quel punto non è che basta la DSL. Non la volevo interrompere, ma è solo per precisare. Prego, Andrea. Certo, diciamo che sicuramente c'è una parte di aziende a cui è necessaria anche la banda che ora chiamiamo ultra larga, ma sono convinto che una ottima DSL, tanto è vero che in altri paesi hanno tecnologie come la DSL 2+ e il VDSL che sono diciamo di buon livello. Sì, sì. Poi non ci dobbiamo dimenticare che c'è stato il WiMAX, dove noi abbiamo investito, cioè comunque ci sono state delle gare e ci dovevano essere degli impegni di copertura col WiMAX, chissà che fine hanno fatto. E poi per ultimo ne approfitto perché forse ci sarà Calabro, Catralina che ci sentono, loro hanno dovrebbero investire molto anche sulla concorrenza del mercato, cosa che non c'è per niente. E lei ha sentito anche che il presidente dell'antitrust ci ha detto che è meglio che convergano pubblico tutti i maggiori players delle TLC e una vasta comunità degli operatori comunque della filiera del settore, perché altrimenti lui dice il conto che si fa il presidente dell'antitrust è che le risorse necessarie per NGN di nuova generazione, insomma la loro redditività è tale che bisogna che si metta tutto insieme il sistema, compresa la parte pubblica. E quindi vedremo, Andrea, perché io sono anch'io molto perplesso. L'ho detto ieri, il Catricalà lo sa, sul fatto che pubblico, operatori privati e tutte le filiere si debbano mettere insieme. Io penso che il mercato si fa dal basso, un processo di scoperta quotidiano, ciascuno si trova il suo mercato con la migliore redditività programmata nel tempo dell'infrastruttura che o ha ereditato dal passato, insomma il rame, e ha upgradato, oppure poi ha costruito in maniera alternativa la fibra ottica, e poi naturalmente stiamo parlando di fisso mobile, di WiMAX, Wi-Fi, di tutte le possibilità di disintermediazione di un solo punto, per così dire. Sentiamo ancora Enrico dalla provincia di Novara. Rapido Enrico, la sua esperienza, opinione? Buongiorno, io ho esperienza diretta perché faccio attività di vendita su internet. Credo che sia una grave cosa che il nostro paese non abbia sviluppato un progetto importante, che sia banda larga o altre cose. No, il problema è che li ha sviluppati ma poi non li implementa, perché da quello Caio a quello Romagno, insomma. Perché credo che sia qualcosa che frena la nostra crescita, mentre invece abbiamo investito molto su un discorso tipo quello della TV, del digitale terrestre, che io non ho capito a cosa serva, o serve solo per vedere meglio il calcio, ma se il calcio è la priorità del paese sono molto preoccupato. No, la transizione al digitale non è solo per vedere meglio il calcio. Su. Grazie anche Enrico. Sentiamo l'opinione di Stefano Quintarelli su questo dibattito iniziato ieri. Un po' meno attenzione sulla parte di convergenza per le infrastrutture, anche se ha sentito il presidente dell'antitrust ribadisce che la prospettiva dal suo punto di vista o è quella oppure non c'è per la banda ultralarga, e come dire, qualche perplessità sul fatto che l'Italia sull'agenda europea possa cambiare marcia e riaccelerare. Lei come la vede, 2 anni di distanza dal piano Caio, Quintarelli? Beh, intanto buongiorno e grazie per l'intervento. Ma sì, è veramente un peccato. Io devo dire che sono d'accordo con molti di questi ascoltatori che sono intervenuti, e anche col presidente Catricalà e anche con François de Brabant. Cioè, il tema qui bisogna allargare la banda sicuramente, anche perché se noi abbiamo un'idea di futuro, il futuro dove sta? L'economia si sta dematerializzando, cioè la componente di informazione all'interno dell'economia sta crescendo sempre di più, e per far girare le informazioni occorrono le reti. Poi gli investimenti non è che siano di queste grandissime dimensioni, no? Perché si dice tutti questi miliardi, alla fine per fare le piste di Fiumicino sono previsti un certo numero di miliardi, no? Credo che siano 6,5, esatto. Dire, è già un investimento significativo. Senza internet non ci sarebbero le compagnie low cost aeree e l'aeroporto di Bergamo non sarebbe stato sfruttato, quindi c'è anche un tema di che l'informazione, far circolare l'informazione ci può dare un aiuto a utilizzare meglio le infrastrutture esistenti, l'esempio dell'aeroporto di Bergamo, ma non solo, tutti i voli point to point. Ecco, quindi io credo che Poi anche l'altro ascoltatore che diceva ma che cosa serve la banda ultralarga, basta una banda larga. Certo, le strade andavano bene, anche le strade sterrate, non è che non si portavano le derrate con le strade sterrate, ma se io voglio portare i prodotti dalla Calabria in Germania ho bisogno di avere l'autostrada, non è che non si potesse fare in precedenza. Qui il punto è che in Italia ci sono, stando a delle statistiche, 6 milioni e mezzo di persone che usano come lavoro abitualmente internet almeno 4 ore al giorno. Allora, se queste persone, la parte di tempo di attesa su internet, già solo, senza pensare a cose nuove, no, tutto quello che viene detto sempre, ma solo queste persone, se invece di mettere di avere mezz'ora di tempi di attesa sparsi nell'arco della giornata di collegamento a internet, invece di avere mezz'ora, avessero 3 minuti, avremmo guadagnato 27 minuti di produttività. Il problema non è tanto che possiamo farne a meno. Il problema è che la Finlandia quel passo lì lo fa, l'ha fatto, la Svezia lo fa, l'Olanda lo fa. Cioè, a questo punto rischiamo di tornare indietro. Ora, per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, certo, la pubblica amministrazione sarebbe un driver di spesa fondamentale, perché non è solo la modalità di rapporto, ma è anche l'utilizzo delle tecnologie. Pensiamo alle dichiarazioni telematiche dei redditi, ha fatto fare un passo avanti notevole a tutto il sistema. Bisogna usare la tecnologia cercando di andare a reinventare i processi, andando a renderli più efficienti. Faccio un esempio banale: adesso stiamo facendo il Tremonti ha detto bisogna fare la dichiarazione telematica delle fatture dai 3.000 euro in su, ma nel momento in cui io emetto una fattura e questa fattura viene caricata su un sistema della pubblica amministrazione, ma perché mai devo conservarla? Cioè, che senso ha la conservazione sostitutiva se posso evitare la conservazione tout court? Cioè, cercare di usare la tecnologia anche in un modo creativo a livello di sistema, secondo me ci porterebbe, noi siamo molto fantasiosi, io su questo forse è l'unica cosa su cui non sono molto, molto d'accordo. Gli italiani, il problema è che questa fantasia alla fine va a finire all'estero, perché qui non ci è difficile trovare le condizioni. Posso chiedere a Broggi una domanda fuori dai denti? Nella sua esperienza, visto che abbiamo appena accennato a Sogei e a tutta la massa di traffico e contemporaneamente anche alla fame di applicativi, di sviluppo di software che l'informatizzazione del fisco, che è la parte naturalmente più esosa, più esigente dello Stato, io lo attacco molto il fisco, continuo sempre ad attaccarlo perché questa pressione fiscale è veramente fuori dal mondo, però naturalmente questo significa che lo Stato lì è stato molto accorto nell'essere avanzato, nell'investire il massimo, e ti credo, perché vuole sapere fino all'ultimo centesimo dei nostri soldi. In quel caso la domanda che mi viene da fare a Broggi è un'altra: i grandi gruppi internazionali che sviluppano appunto applicativi, software, che sono quelli insomma che fanno interagire le piattaforme, l'hard, il software, e poi rendono trasferibile in numeri aziendali, in maggior fatturato e in maggior utile per le imprese, la possibilità davvero di usare internet e le nuove tecnologie, non solo internet, sono altrettanto attente, hanno nella sua esperienza orecchie altrettanto attente a cercare di scovare nella pluralità delle filiere, dei distretti, della piccola impresa italiana, possibili clienti? Cioè, fanno toc toc abbastanza per dire guardate che con questo e con questo voi potreste fare tot passi avanti nella sua esperienza, oppure hanno soprattutto orecchie attente ai grandi committenti pubblici, a voi della Consip, alla Sogei, eccetera eccetera, perché sono abituati alla mentalità dei grandi contrattoni? Broggi, che dici? Sì, in parte devo dire è anche fisiologico, perché il comportamento poi di queste aziende evidentemente si modifica secondo la segmentazione del mercato, però in questo c'è una responsabilità, che è quella comunque di non saper vendere il proprio prodotto, sì, facendone comprendere il valore sottostante. Questo è un tema soprattutto per il sistema del PMI, che secondo me anche i grandi gruppi non sono stati capaci di mettere in campo. Vorrei aggiungere, anche se mi è concesso, una breve riflessione sul tema della burocrazia. Sicuramente l'ICT è l'antidoto per abbassare il livello di burocrazia e rendere questo rapporto fra cittadino, Stato, fra imprese, Stato in senso più generale, quindi enti locali, regionali, Stato, sicuramente un rapporto più semplice, più funzionale. Bisogna che nell'amministrazione vi siano interlocutori che sanno di cosa si sta parlando, perché il tema è proprio quello di andare a riguardare i processi e usare lo strumento dell'informazione information technology come abilitante, ma anche il mercato deve, come posso dire, smettere di offrire servizio o guardare la commessa pubblica come la commessa che può o fare il budget o soddisfare esigenze, invece mettersi in un confronto strategico, propositivo, capace quindi nella combinazione di un interlocutore domanda, capace, attento, competente, e un'offerta consapevole della creazione del valore. Ecco, questo è il, diciamo, l'obiettivo che dobbiamo perseguire, e secondo me da questo punto di vista i risultati possono essere strabilianti, cioè si può anche in breve tempo, nell'arco di qualche anno, veramente dare un contributo importante alla diminuzione del livello della burocrazia in Italia. Sentiamo ancora due esperienze di ascoltatori proprio su questo punto del pubblico. Innanzitutto Marco da Napoli. Rapido Marco, qual è la sua esperienza? Salve, buongiorno. Senta, io le porto un'esperienza personale. Io lavoro nella pubblica amministrazione, in un ente di ricerca, e abbiamo fatto dei software online per la gestione della contabilità, gestione del personale, gestione dei flussi documentali. Questi software, sviluppati all'interno con tecnologie open source, non sono pubblicizzati, o meglio, lo sono, sul, non so se lo conosce, il portale del riuso del CNIPA. Del CNIPA, come no? Sì, però le altre amministrazioni è come se non li vedessero. Perché? Perché è come se non avessero le competenze poi per gestire questi applicativi. Cioè ci noi sono ma non vengono sfruttate. Di gestirle da noi, però sembra che vogliano andare su società private con software che non Marco, Marco, Marco, aspetti un secondo, perché io conosco il riflesso condizionato dei ricercatori pubblici, che sono sempre dell'idea che c'è qualcuno dietro il pubblico che vuole smantellare il pubblico per fare i favori a privati. Lei è sicuro di quello che dice? Cioè che non vi fanno vedere gli applicativi che avete fatto perché vogliono fare un favore ai privati, o invece è perché è mal gestito il portale del CNIPA? Adesso noi non risolviamo a parole tra noi due, quindi dubbio, però io conosco qual è il riflesso condizionale che molti di voi, non so lei, hanno in questo settore. Ora 30 secondi di pubblicità. Eccoci tornati in studio, banda larga, copertura del gap rispetto all'Europa, gli obiettivi dell'agenda digitale europea che sostituisce e finalmente rilancia il dibattito dopo lo stallo che dopo due anni dal piano Caio e il piano Romano e gli 800 milioni che per coprire il digital divide erano evaporati, e gli operatori che hanno ripreso una fase muscolare di confronto con Wind, Vodafone, Fastweb, distinti nella responsabilità da Telecom Italia, che va avanti con un proprio programma. Vodafone ha aggiunto due giorni fa l'annuncio di una copertura, un nuovo comune al giorno, ma comuni fatevi avanti voi per fare capire a Vodafone quali sono le vostre esigenze, per capire quale ordine di priorità Vodafone rispetto alle sue coperture finanziarie, al suo piano di investimenti, possa graduarvi nella graduatoria. Quindi si va in ordine sparso. Katri Kalash ha detto no, bisogna tornare a una società mista, un terzo pubblica, un terzo immagino operatori telefonici, un terzo tutto il resto del mondo dell'ICT italiano, perché sennò noi la rete nuova generazione non la facciamo, senza nessun esproprio, ha detto il presidente dell'antitrust. Sentiamo ancora l'ultima telefonata. Marco dalla provincia di Pavia, qual è la sua esperienza e opinione, Marco? Sì, buongiorno e grazie a tutti. Io volevo semplicemente portare una mia testimonianza personale di quanto mi è accaduto. Io sono un agente di commercio, mi sono messo in proprio, lavoravo presso un ufficio che avevo all'interno della mia abitazione e non ero raggiunto da DSL. Io abito praticamente la mia abitazione a 2 chilometri esatti dal centro di Pavia. Dal centro di Pavia, non stiamo parlando insomma dei Nebrodi in Sicilia, ecco. Esattamente, ho fatto richiesta per avere una DSL, la DSL è raggiunta soltanto per 150 persone, benché io ne facessi un uso assolutamente lavorativo, non potevo averla perché chiaramente era numero chiuso. Il risultato, dopo bollette astronomiche, cioè mi ritrovavo a pagare cose del tipo 300-400 euro. Chiarissimo. Sì. Di questo l'ha indotto a pensare che si doveva spostare, questo è ovvio. Mi sono spostato, ho aperto un ufficio che chiaramente poi ho fatto fruttare ovviamente, per essere raggiunto da ADSL. Vada bene che io utilizzo soltanto sistemi informatici, quindi navigazione su internet per me è il pane quotidiano, certo. E tutto quello che è un po' lo strumento informatico in genere è per me è fondamentale per il lavoro. Grazie, sì. Grazie a Marco. Allora, con François de Brabant, 2 minuti e mezzo a lui per concludere non so, il punto di questi 2 giorni, ma il punto anche di, così, di quello che sente dai nostri ascoltatori. Qui in effetti il digital divide c'è ancora ed è in parte fondamentale, dove c'è tanto PIL e tanto valore aggiunto dell'economia nazionale. Da questo punto di vista chiedo la sua impressione su quanto di locale si è messo in moto nell'ultimo anno in alcune regioni, tra cui la Lombardia, e anche in alcuni grandi comuni. È una prospettiva su cui puntare? Secondo, ciò che viene dalle prime reazioni, visto che si conclude oggi a Capri, a questo nuovo taglio, creiamo la domanda, prestiamo un orecchio alla complessità del mondo imprenditoriale, alla piccola impresa italiana, come l'hanno accolto gli interlocutori a Capri? Prego Deborah Ballo, abbiamo 2 minuti e mezzo. Giannino, mi permetta di riprendere un attimo Amedeo, Andrea e Marco, perché trovo che abbiamo toccato dei punti centrali. Allora, Marco Pavia si delocalizza per avere la DSL. La domanda è: Marco fra 5 anni sarà costretto a fare la stessa cosa per passare dalla DSL alla fibra? Esatto. Questo è il problema, perché se no potrebbe andare avanti con la banda stretta e non delocalizzarsi. Oggi il futuro avanza, cioè dicevamo prima, la banda va allargata, appunto, non è discutibile, è impossibile fermare la tecnologia, quindi è impensabile che in 10 anni l'umanità abbia raggiunto il massimo di banda disponibile tecnologicamente, e soprattutto che in 10 anni abbiamo creato la banda utilizzabile nei prossimi 50 anni. Fine del problema, cioè bisogna allargarla, se no ci saranno tanti marchi che dovranno delocalizzarsi. Amedeo ha toccato un punto molto importante, cioè, ho capito, piccolo imprenditore, variabile tempo. È vero che nei primi anni, 15, perché internet non ne ha molti di più, internet ha fornito la possibilità di navigare, di andare a cercare. Ecco, e in questo senso io capisco che l'imprenditore piccolo italiano non abbia il tempo di andare a cercare. La cosa interessante che segnalo a Medeo è che sempre di più si può trovare, e trovare velocemente, e quindi rispondere a delle esigenze precise. Mi fermo qui perché si può parlare molto, ma è questo il punto, perfetto. Cioè si devono trovare servizi, e i servizi certo devono essere messi a punto da qualcuno. Andrea, che mi è sembrato uno che capisce perché ha parlato di White Max e così via, volevo farlo riflettere su un punto, e cioè che la DSL è asimmetrico, non è simmetrico. Allora, pensiamo per un attimo che c'è un tema, di cui appunto abbiamo parlato anche ieri, c'è un'applicazione che è attualmente sottoutilizzata, che è il video online. Prima l'altro Marco da Napoli parlava di open source e così via. Ecco, negli ultimi anni c'è stato un grande scambio di software, di file musicali e così via, ma anche tutto ciò che è stato detto in termini di pubblica amministrazione va benissimo sulla banda stretta. Il nuovo che avanza è un uso del video, non solo YouTube per cui si scarica da un download di un video, ma è l'uso del video per tante altre cose, per la didattica, per il business. Cioè, perché descrivere in cataloghi complicatissimi il funzionamento di macchine, e poi questi cataloghi devono essere dati all'installatore, poi l'installatore deve poi deve dare un catalogo un po' più piccolo al cliente finale. Tutto questo verrà spiegato molto facilmente. Ricordiamoci che il video è analogico, cioè lo capisce chiunque, e l'unico soggetto in grado di decriptare un video è il cervello umano. Quindi stiamo tornando, passando attraverso il digitale all'analogico, e qui mi fermo e vengo alle domande che le ho posto. Ma il territorio è il grande attore che non ha ancora giocato e mai dovrà giocare in futuro. I segnali sono chiari, perché? Perché il territorio si è accorto, grazie, tra virgolette grazie, purtroppo a seguito del digital divide, ha avuto dalla gente, dagli imprenditori, il problema che diceva Marco Pavia, cioè ci sono problemi di ADSL. Allora a questo punto il territorio, i responsabili dello sviluppo territoriale si sono accorti che questo settore, le reti, le telecomunicazioni, sono un elemento importante di sviluppo territoriale. E vediamo a questo punto se riusciamo a coordinarli. Io purtroppo, siccome il tempo è tiranno, ringrazio François de Brabant e prometto che noi tendremo oggi l'orecchio verso Capri per capire come finisce la 2 giorni di quest'anno organizzata da Between. E ringrazio oltretutto Stefano Quintarelli, Danilo Broggi e Antonio Catregalà, con cui abbiamo aperto oggi questa trasmissione. E grazie regia Carmelo Lauricelli e redazione ad Alessandro Marco Tulli, che è anche assistente oggi alla diretta. Tornata, siamo felici, linea al Giornale Radio, appuntamento a lunedì.